Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su Controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, 127esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Alla parte tecnica il preziosissimo Francesco Azzurri e il menù musicale è curato da Giona Vinti e Lorenzo Ranfagni. No, I get by with a little help from my friend. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? Oggi cominciamo un nuovo viaggio in una straordinaria realtà animalista. Il Parco dell'Abatino. Per qualche domenica, quindi, da oggi in poi, salvo qualche possibile eccezione, vi presenteremo alcuni ospiti di questo parco. Si tratterà di animali diversissimi tra loro, ma ciascuno sarà visto come singolo individuo, protagonista di una particolare storia di vita. Spesso metafora del violento e insostenibile dominio che la specie umana ha stabilito con le altre specie animali e non solo. Rubrica di attualità Animal House, parliamo di una proposta di 10 leggi animaliste che la Federazione delle maggiori realtà animaliste italiane hanno consegnato nelle mani del Presidente del Senato Piero Grasso. Per la rubrica Perle agli umani, la nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, ha intervistato per noi Grazia Cacciola, scrittrice che coniuga decrescita, autoproduzione e stile di vita cruelty free. La rubrica di cucina del nostro chef Gabriele Palloni vi propone oggi una versione cruelty free dell'arcinota ricetta degli spaghetti alla carbonara. Nella rubrica filosofica del professor Luigi Lombardi Vallauri affronteremo le recenti posizioni di retroguardia della Chiesa rispetto ai circhi con animali. Per chiudere, Lorenzo Guadagnucci recensirà per noi il penultimo numero della rivista settimanale Internazionale, che ha pubblicato un pezzo sugli allevamenti intensivi di maiali in Germania, a sua volta tradotto dal settimanale tedesco Spiegel. Restate in ascolto di Restiamo Animali. Da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Dopo l'Ippoasi e il rifugio per animali selvatici Monte Adone, dove siamo già stati e dei quali vi abbiamo già lungamente parlato, partiamo con una nuova serie di puntate, tutte registrate l'estate scorsa quando abbiamo trascorso molte ore in compagnia del professor De Marco e della sua famiglia, fondatori di un rifugio per animali recuperati che si trova in provincia di Rieti, un luogo particolarmente isolato e selvaggio. Tra i 500 e passa animali residenti in quel luogo menziono le celebri 12 femmine di macaco, sicuramente scampate a un laboratorio di vivisezione, visto che hanno un enorme numero tatuato sul petto, delle quali si è fatta carico l'associazione Onlus Vita da Cani e che il parco dell'Abatino ospita in una struttura adeguata, piena di stimoli idonei a quella specie. Invitiamo tutti a sostenere le bambine, dato che il loro mantenimento costa circa 1.500 euro al mese. Potete trovare tutte le informazioni nel sito internet vitadaccani.org. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. Siamo a Poggio San Lorenzo, nel parco dell'Abatino, dove sono ospiti alcune centinaia di animali, larga parte primati, ma anche felini. Abbiamo visto lama, abbiamo visto mufloni, asini, uccelli, animali veramente di tanti tipi, sempre recuperati, spesso da sequestri, altre volte reduci da laboratori di sperimentazione. In questo luogo riescono ad avere la possibilità di vivere, di continuare a vivere rispetto delle loro caratteristiche. È un lavoro molto impegnativo che viene condotto dal professor Antonio De Marco, che è qui con noi, al quale chiediamo di spiegarci intanto qual è stato il suo percorso personale e professionale che l'ha portato poi a questo centro. Intanto, come biologo, in qualche modo c'è una certa affinità con le scelte che ho fatto successivamente. Sono in pensione, per anni mi sono occupato di ricerca, in particolare sono lavorato al CNR. Una scelta è stata quella di trasferirci con la famiglia fuori da Roma, un posto nella Sabina che ancora c'ha il fascino, tutto sommato, di un ambiente abbastanza interessante. È cominciato con l'affidamento di qualche animale, mi ricordo, erano delle civette, collaborazione con delle associazioni, in quel caso mi pare che era la Lega Ambiente, poi venne fuori la Lipo, eccetera, poi accordi col Corpo Forestale dello Stato, alla fine insomma è venuta fuori questa struttura, percorso che è durato circa 30 anni, poi la struttura si è via via ampliata perché questo problema del recupero degli animali è un problema grosso, nel senso che le strutture presenti sono in linea di massima insufficienti ad accogliere invece una richiesta che è sempre più pressante e che poi non ha possibilità molte volte di trovare un'adeguata risposta, proprio perché non ci stanno i mezzi e le strutture sono poche. Ci descrive questa struttura, come lavora, quali sono le persone che sono impegnate, quante persone sono impegnate in un lavoro che ovviamente deve essere svolto tutti i giorni dell'anno, non ci sono possibilità di interrompere l'assistenza a questi animali. È una gestione nata come una gestione familiare, anche poi l'abbiamo strutturata come un'associazione, una onlus, ma l'apporto rimane essenzialmente fondamentale, il nucleo è un nucleo familiare. E fin dall'inizio insomma abbiamo valutato anche come poteva strutturarsi, quindi il contributo per esempio che può venire dai volontari. Il volontariato non può mascherare però in realtà delle forme di lavoro, cioè il lavoro va garantito attraverso dei contratti regolari e quindi il volontariato deve essere effettivamente volontariato, cioè un qualcosa che si aggiunge a un'attività che comunque è garantita. Però proprio per le ragioni che si dicevano prima, essendo qui il lavoro continuo e ha bisogno anche di una programmazione che non può essere fatta in maniera saltuaria, noi abbiamo cercato innanzitutto di garantire una presenza di personale effettivo, cioè che non possa basarsi solo sul volontariato. E quindi abbiamo due persone con contratto a tempo indeterminato per fare delle ricerche di tipo etologico sul comportamento e quindi sull'osservazione. Qui sono presenti altre quattro persone in questo momento con contratti, quindi sempre a tempo indeterminato, altre a tempo determinato. Comunque insomma, quindi stiamo già a 6, diciamo che su circa una decina di persone. Certo, insomma, ne servirebbero molto di più. Attualmente noi abbiamo circa 500 animali, tenendo conto che i numeri variano perché alcuni animali rimangono qui in maniera permanente, altri sono di transito. Da questo punto di vista questa struttura opera sia come centro di recupero che, mediando un termine dall'inglese, definito una sorta di santuario, forse in italiano sarebbe meglio una sorta di rifugio. La differenza rispetto a un centro di recupero è che un santuario è una struttura in cui gli animali che arrivano poi vengono ospitati permanentemente. Noi per esempio tra gli animali che abbiamo più numerosi sono le scimmie. È chiaro che per le scimmie non possiamo pensare a una fase di transito, quindi si tratta di creare delle strutture che li devono ospitare in maniera permanente. Questo fa sì che poi i costi siano abbastanza elevati, perché ogni volta che si presenta la necessità di ospitare delle scimmie raramente è possibile integrarli in gruppi già esistenti, bisogna programmare creazione di nuove strutture. I bilanci sono quelli che sono, per cui queste nuove strutture noi in genere per farle insomma li creiamo noi, non possiamo metterli in appalto perché i costi sarebbero molto elevati, e quindi questo fa sì che non abbiamo tanto tempo per altre cose. Questa struttura ci impegna moltissimo alla fine. We gotta sit close together. We gotta sit close together. If it dawns. Animal House. Notizie, interviste, attualità. You know that this old world is a lot harder than one little person just can't win. Take the two of us on the side by side. All'inizio di ogni legislatura la LAV, Lega Antivivisezione Italiana, ha presentato nelle mani del nuovo governo di turno un programma di legislatura a favore degli animali. La novità quest'anno è che, essendosi formata la Federazione Italiana dei Diritti degli Animali e dell'Ambiente, di cui fanno parte congiuntamente LAV, ENPA, OIPA, Lega Nazionale per la Difesa del Cane ed altre realtà, è stato condiviso e messo a punto un programma di legislatura speciale, particolarmente ampio, per il Parlamento e il governo attuali. Questa petizione ha raccolto in meno di 3 mesi oltre 100.000 firme di cittadini italiani ed è stata consegnata recentemente nelle mani del Presidente del Senato Piero Grasso. Ne parliamo con Gianluca Felicetti, Presidente della Lega Antivivisezione Italiana. Si tratta di un programma di legislatura ambizioso, come deve essere quello ad inizio di una, appunto, di un nuovo Parlamento, di un nuovo governo, e al di là delle incertezze politiche di questa legislatura, alcuni di questi temi, il tema dell'esezione è stato già affrontato a inizio di questa legislatura con quello che è tortuoso percorso dell'adeguamento italiano alla direttiva europea sulla vivisezione, al quale siamo riusciti a strappare dei piccoli ma importanti passi in avanti, come quello della chiusura per legge della possibilità di allevare cani, gatti e primati non umani per la sperimentazione, quindi una chiusura definitiva di Green Hill, a prescindere dall'esito giudiziario sul quale comunque siamo ottimisti. Noi siamo reduci da una precedente legislatura nel quale siamo riusciti a strappare alcuni importanti passi in avanti, penso al riconoscimento del diritto al soccorso degli animali negli incidenti stradali, cosa che ovviamente purtroppo avviene normalmente, come anche per le persone. Avevamo questo limite, questa grande lacuna da parte di una norma che non ha a che fare con la tutela degli animali, il codice della strada. Abbiamo ottenuto questo riconoscimento, abbiamo ottenuto il vietato vietare nei condomini all'interno di una riforma parziale del codice civile. In questo elenco di battaglie, in alcuni casi storiche, noi contiamo di poter portare sicuramente alcuni risultati concreti, anche quelli che hai definito realistici, ovvero il fatto di disincentivare la zootecnia intensiva. Sicuramente rispetto a questo modello di sviluppo sbagliato che si persegue può essere considerato irrealistico. Nel momento in cui, in un momento di cosiddetta standing review, vengono tagliate anche spese essenziali, come quelle per esempio per il diritto alla salute piuttosto che per i trasporti pubblici e la scuola, è evidente che non si capisce come mai alcune attività, come quelle che ormai gran parte della dietologia indipendente ritiene essere da sorpassare, sicuramente almeno nella quantità, al di là dell'opzione vegana che ovviamente è quella che noi sosteniamo, è all'interno di provvedimenti che hanno a che fare con i conti pubblici. Speriamo di poter inserire, grazie a qualche parlamentare volenteroso in maniera trasversale, questo è quello che cerchiamo di perseguire sempre come strumento per poter ottenere dei risultati concreti, quindi anche questo può non essere considerato tanto irrealistico. Sicuramente la battaglia per la chiusura, come sta avvenendo in altri paesi dove sono state già varate delle leggi per il divieto degli allevamenti di animali da pelliccia, tema che ci rivedrà nelle piazze nel fine settimana del 1 e dell'8 dicembre in tutta Italia per una nuova raccolta indirizzata ai deputati della Commissione Agricoltura e ai senatori della Commissione Sanità che devono calendarizzare questo testo di legge, è un obiettivo quelli che consideriamo più praticabili da subito, anche perché abbiamo l'esempio positivo degli altri paesi. Noi lo siamo stati per altri in altre parziali ma importanti campagne, come quella per esempio del divieto di soppressione dei cani randagi solo perché randagi. In questo caso l'esempio che ci viene da Svezia, Olanda, Inghilterra, Scozia, che hanno vietato l'allevamento degli animali da pelliccia, speriamo che possa essere un viatico positivo per ottenere questo risultato anche nel nostro paese. Un tema che ogni attivista animalista deve affrontare quotidianamente è quello del randagismo. Ci sono appelli continui di cani e gatti che cercano disperatamente delle adozioni. Su questo tema, qual è la vostra proposta? Beh, noi chiediamo che finalmente venga chiuso il rubinetto della riproduzione, dell'allevamento, della vendita degli animali e che questo non è solo una richiesta utopica da parte animalista, ma dovrebbe essere un provvedimento preso per motivi emergenziali, soprattutto in alcune zone del nostro paese, come sono quelle del sud, da parte dei prefetti, perché questa quantità di cani vaganti, questa grande mole di animali che comunque sono in canili, molto spesso lager, altri ben gestiti, ma comunque in una situazione di contenzione, devono farci fare una conversione ad U come sistema paese. Da un punto di vista economico, la prevenzione con la sterilizzazione, se effettuata in termini di campagna sociale, costerebbe enormemente meno alle amministrazioni comunali se applicata a tutti i cani presenti sul territorio rispetto a quello che invece è la quota che devono versare per il mantenimento dei cani, molto spesso abbandonati nel senso letterale del termine, magari in un'altra provincia o a grande distanza dal proprio territorio, in un luogo che nessun cittadino sa, anche quello più volenteroso. Quindi abbiamo la possibilità e necessità di rivedere anche dal punto di vista economico e quindi convincendo le amministrazioni dello Stato, laddove non si convincono per termini morali ma anche in termini appunto economici, che tutelare gli animali, contrastare l'abbandono con la prevenzione costa meno e fa meglio a tutti, ovviamente agli animali in primis ma anche alla società e alle casse pubbliche. Gianluca Felicetti, restiamo animali? Certo, restiamo animali. Just can't win. Take the two of us on down, side by side. Could try to keep each other from being taken for a ride. We gotta stick close, close together. We gotta stick close, close together. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. In compagnia di Grazia Cacciola, che ha parlato del suo libro Manuale di autoproduzione e decrescita. Che cosa ci può essere in comune tra questi due aspetti, autoproduzione, decrescita e vivere vegan? Secondo me sono due aspetti inscindibili. Non si può fare decrescita senza essere vegan e non si può essere vegan senza fare decrescita. Nel primo caso semplicemente perché il decrescitore ha un impegno anche sociale, ecologico e anticapitalista nei confronti del mondo, quindi nel momento in cui decide per un'alimentazione vegan è un'ulteriore decisione che fa parte della sua di non essere ad alto impatto sul mondo, quindi è una decisione soprattutto ecologista. Dal punto di vista del vegan che decide di non fare decrescita è un controsenso, perché l'inquinamento che noi produciamo va a incidere maggiormente sugli animali rispetto a altri esseri viventi come noi mammiferi inquinatori. quindi essere vegan solo per mangiare la soia non ha molto senso, lo ha nel momento in cui cerco anche di avere meno impatto sull'ambiente, in modo che con meno inquinamento non ci siano morie di animali come quelle che si stanno verificando. Non vuol solo dire non mangiare animali, ma anche non ucciderli inquinando. Uno degli aspetti maggiormente criticati comunque a una scelta di vita vegan è anche il fatto che è una scelta d'élite comunque come consumo, prodotti spesso costosi, prodotti comunque che devono essere cercati in luoghi specifici, in negozi specifici. L'autoproduzione e la decrescita comunque anche in questo senso? L'autoproduzione è assolutamente in questo senso, perché non ci siamo purtroppo abituati, ma siamo stati indotti ad abituarci a dei prodotti confezionati che sono molto costosi per il fatto di essere già pronti. Molti prodotti noi ce li possiamo fare assolutamente in casa, per esempio la pasta, banalmente il pane, piuttosto che cose più sofisticate che crediamo essere sofisticate, impossibili da avere senza aziende, come per esempio il dado vegetale, che è una cosa che si fa tranquillamente in casa in una mezz'ora e dura per un anno. Ed è assolutamente sano. Se noi togliamo tutta questa serie di consumi indotti, in scatolati, confezionati nella plastica, abbiamo comunque una spesa pro capite che è bassissima, e oltre come decrescitori a non contribuire a queste variazioni enormi di PIL che abbiamo negli ultimi anni, non contribuiamo neanche all'inquinamento di tutti questi packaging che utilizziamo, e quindi diventa anche più economico, perché banalmente un pacco di farina da un chilo mi produce 1,2 kg, 1,3 kg di pane. Se voi fate il calcolo di quanto vi costa il pacco di farina da 1 kg, che è sull'€20, quella biologica addirittura, al massimo 2 euro, il 1,2 kg di pane non lo pagherete mai 2 euro. Quindi già ci sono risparmi di questo genere. Poi ci sono quelli proprio macroscopici, come per esempio quello di farsi per esempio dei vestiti in casa, di rimettere a posto vestiti per conto proprio. Io per esempio oggi sono venuta con un golf fatto da me che mi ha costato 5 euro di filato e che funziona benissimo da un paio d'anni. Bella, tra l'altro, complimenti. Ultima precisazione che ti chiedo, hai spiegato la differenza tra downshifting e decrescita, puoi spiegarla anche per gli ascoltatori? Sì, allora il downshifting è una decrescita praticamente personale, è un lavorare meno per vivere meglio, per vivere qualitativamente meglio, quindi non aspettare la pensione per fare il viaggio dei sogni, piuttosto che per vivere facendo l'orto o per rilassarsi tutti i giorni, ma decidere di consumare meno, quindi avere bisogno meno stipendio e avere magari mezza giornata a disposizione, oppure come esempio che riporto nel libro, di persone che lavorano solo 6 mesi all'anno perché gli basta per coprire le spese di tutto l'anno. Ovviamente questo vuol dire contenere le spese, ma con l'autoproduzione, quindi non vuol dire privarsi di tutto, ma avere delle cose buone, controllate fin dall'origine, perché autoproducendo possiamo controllare completamente la filiera del prodotto, fatte da noi, quindi anche con soddisfazione, e questo ci permette di vivere come downshifter, cioè come persone che consumano meno. La decrescita è invece un impegno un po' più grosso, anche perché è un impegno non solo personale ma anche verso il mondo, è un po' la volontà di cambiare il mondo dal punto di vista ecologico soprattutto, e questo comprende anche il punto di vista animalista per forza. Dal punto di vista anche anticapitalista, cioè non dover dipendere per le proprie necessità primarie solo ed esclusivamente dalle multinazionali o dalla grande distribuzione, ma essere in grado di fare delle cose per conto proprio o uscire da questo cerchio dei consumi indotti che oggi abbiamo. Quindi è un discorso anche di tipo sociale. Grazie a Cacciola, restiamo animali? Restiamo animali, assolutamente. We got all the clothes together. We gotta stay close together. We gotta stay close. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Allora, oggi facciamo gli spaghetti alla carbonara vegan. La carbonara penso sia una di quelle ricette più anti-vegane possibile. Abbiamo pancetta, uova, latte, alcuni ci mettono la panna, e invece noi la facciamo senza crudeltà, e ce ne diranno di tutte e noi le affronteremo. Allora, come al solito, iniziamo con gli ingredienti. Per 4 persone 400 g di spaghetti, 300 g di zucchine, 5 o 6 pomodori secchi, uno spicchio di aglio, 100 ml di latte di soia non zuccherato, 150 ml di olio di semi di soia bio oppure di girasole, 50 ml di olio extravergine di oliva, un cucchiaino abbondante di curcuma in polvere, del pepe nero macinato fresco. Iniziamo tagliando le zucchine a strisce lunghe e facendole grigliare molto bene. Nel frattempo tagliamo anche i pomodori secchi a pezzettini, a strisce strette e lunghe. Una volta che le nostre zucchine sono grigliate, le ritagliamo a quadretti, come se fossero dei piccoli pezzetti di pancetta, appunto. E le facciamo rosolare in una padella assieme ai pomodori secchi e un filo di olio extravergine d'oliva con uno spicchio di aglio in camicia che poi toglieremo dalla padella. A parte, col frullatore a immersione, montiamo il latte di soia con 150 ml di olio di semi di soia e 50 di olio extravergine di oliva. Ne mettiamo solo una parte di olio extravergine, non tutto, perché altrimenti la salsa diventerebbe troppo forte, con un gusto troppo deciso che andrebbe a coprire poi quello della curcuma che a questo punto andiamo a unire. Quindi mettiamo il cucchiaino di curcuma e un po' di pepe nero macinato al momento. Cuociamo la pasta e la scoliamo al dente, salvando sempre un bicchiere di acqua della cottura per far sciogliere un po' la nostra salsa, qualora risultasse un po' troppo densa. Saltiamo velocemente in padella assieme alle zucchine e ai pomodori secchi precedentemente cotti, unendo la nostra salsa alla curcuma. Serviamo con del pepe nero macinato fresco e, volendo, anche una spolverata di lievito secco, quello che non lievita più. Diciamo che in questa ricetta abbiamo un po' azzardato: invece di sostituire la pancetta con del muscolo di grano, del seitan affettato, ho lanciato una sfida, ho provato a cambiare, no? Utilizzando appunto delle zucchine e dei pomodori secchi. A voi dirci com'è il risultato. Se vi foste persi ingredienti, procedimento o anche la ricetta intera, non vi preoccupate perché potete ritrovare tutto sul nostro blog, che è restiamoanimali.wordpress.com. Quindi buon appetito e buona sperimentazione in questa cucina senza crudeltà. E aspetto i vostri feedback, se avete domande, curiosità, foto anche delle vostre prestazioni culinarie. Basta mandare un'email a restiamoanimali@controradio.it. Vi aspetto domenica prossima, l'appuntamento è sempre su Controradio nella rubrica Il Pasto Gentile. Sostiene Vallauri. Recentemente la Fondazione Migrantes, che è un'emanazione della Conferenza Episcopale Italiana, è intervenuta sul tema dei circhi. E lo ha fatto per criticare una legge appena introdotta che stabilisce incentivi ai circhi, allo spettacolo viaggiante, che non fa uso di animali. Il professor Luigi Lombardi Vallauri, come valuta questo intervento sorprendente della Fondazione Migrantes? La prima cosa che ha suscitato in me ovviamente è il sorriso, perché mi sono chiesto: davvero non sanno più di che cosa occuparsi se si occupano dei circhi, questa conferenza episcopale? So di essere un po' inviso alla conferenza medesima. Ho sentito dolore quando hanno allontanato da presidente Monsignor Crociata, perché trovavo che avere un presidente della conferenza episcopale Monsignor Crociata e un capo della polizia dottor Manganelli era una buona cosa. Però c'è qualcuno che veglia su questi nomi, perché il nuovo ordinario militare d'Italia, cioè il capo dei cappellani militari, si chiama Santo Marcianò, e quindi suppongo che riduca le marce dei suoi fedeli. Scusate questa cosa futile. Dunque, dicevo, la prima cosa che mi ha colpito è il tono molto forte, quasi inconsueto, di questi vescovi, perché usano espressioni come cedimento alla demagogia, come scelta culturale precisa che non favorisce certamente un corretto rapporto tra uomo e animali, come una tradizione offesa e sacrificata alla luce di scelte ideologiche. Sono parole forti, a cui non siamo abituati, i vescovi sono in genere molto vaselinati. D'altra parte dicono anche qualche cosa di positivo. Faccio qualche osservazione, diciamo, nel merito. Anzitutto, un incentivo non significa divieto di circhi senza animali. Mentre, non so, la zoomafia è vietata, anche senza incentivi i circhi equestri, se piacciono più degli altri, possono continuare a esistere. Poi mi chiedo se non basterebbe applicare ai circhi con animali il diritto comune, perché quello che mi scandalizza non è tanto l'animale che fa delle prodezze, perché allora bisognerebbe impedire anche le corse dei cavalli, i concorsi ippici. Quello che mi dispiace è che l'animale venga trattato malissimo, tenuto in gabbie strettissime. Ora, questo è tutto già colpito dal diritto comune, consente i sequestri, eccetera. Quindi non so se ci vuole veramente una legge apposita. Applicare il diritto comune mi sembra sufficiente. Poi non vorrei cadere nel benaltrismo, un termine che ho scoperto da poco, che si usa molto con gli animalisti. Ah, voi vi occupate di animali, c'è ben altro da fare. La cosa strana è che quelli che dicono c'è ben altro da fare, poi queste altre cose non le fanno. Come quando qualcuno dice, ma anche le carote soffrono, allora gli chiedi, ma allora tu ti astieni anche dal mangiare le carote? No, io mangio le carote e le bistecche. Allora, il mio timore è di cadere nel benaltrismo, però devo dire che paragonato ai cacciatori, ai pescatori, agli allevatori intensivi, ai macellai e ai vivisezionatori, beh, insomma, quelli che tengono questi circhi, qualora il diritto comune venisse effettivamente rispettato, mi sembrano non così nefandi. Una cosa carina che dice il vescovo Perego è che i circhi potrebbero essere una valorizzazione di un mondo animale amico dell'uomo e compagno di strada, amato da bambini e ragazzi e che vede gli animali protagonisti. Se togliamo queste espressioni dal contesto dei circhi come sono realmente, non posso che sottoscriverle. Ben venga una conversione del clero cattolico a un minimo di animalismo, date le colpe storiche spaventose che hanno accumulato nelle loro dichiarazioni dogmatiche. Tigri di carta. Rassegna stampa altro animalista. Questa settimana ci concentriamo su un articolo, un'inchiesta pubblicato dal settimanale tedesco Der Spiegel e ripreso da Internazionale, settimanale italiano, che tiene questa storia, così come aveva fatto Der Spiegel, in copertina. Il titolo scelto da Internazionale è Il vero prezzo della carne. Diciamo subito che questa inchiesta è piuttosto scioccante per i suoi contenuti, per quanto non indulga mai o raramente in particolari raccapriccianti e semmai colpisce proprio per la poca attenzione che presta alla sofferenza animale e per un approccio strettamente antropocentrico e quindi concentrato sui guasti prodotti dall'allevamento in termini ambientali, in termini di danno alla salute. Il titolo interno del servizio su Internazionale è Il prezzo del maiale. L'industria della carne suina tedesca è efficiente e sforna prodotti a basso costo. Dietro questo sistema però ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche d'allevamento che usano enormi quantità di antibiotici. Leggiamo qualche passo iniziale dell'articolo. I rappresentanti dell'industria della carne, gli allevatori, gli ingrassatori e i macellatori si sentono spesso incompresi e ingiustamente messi alla gogna. Tuttavia anche chi li critica ha validi argomenti contro il piano di battaglia globale dell'industria zootecnica, un sistema che provoca danni agli esseri umani, agli animali e all'ambiente. Il liquame degli allevamenti per esempio è un problema per le falde acquifere, a questo si aggiungono i frequenti casi di maltrattamento degli animali e l'importazione di foraggio, le cui coltivazioni portano all'abbattimento di intere foreste pluviali in Sud America. Nell'articolo si descrive l'intero procedimento di creazione e distruzione della vita di questi maiali. Si racconta poi la storia di Christian Henne, un agricoltore della Bassa Sassonia. Henne alleva porcellini che poi vende a diversi ingrassatori. Nelle sue stalle ha circa 700 scrofe. Ecco come avviene la procedura di inseminazione. Le operazioni, scrivono gli articolisti, di stimolazione ormonale e di inseminazione delle scrofe si svolgono sempre di martedì. Quindi comincia la grande parata del verro, che però serve solo a creare l'atmosfera giusta. Il povero verro, infatti, scorrazza davanti e indietro di fronte alle scrofe rinchiuse nei loro angusti box e in questo modo le stimola. Nel frattempo, Henne e i suoi dipendenti inseriscono, con l'aiuto di una lunga pipetta di plastica, lo sperma contenuto in una provetta da 2,50 euro. L'obiettivo è far nascere 12 o 13 porcellini per ogni scrofa. La produzione è ottimale. dice Henle. In questo settore l'ottimizzazione è tutto. Poi si racconta il parto. Circa una settimana prima che la gestazione finisca, le scrofe vengono portate nelle stalle da parto. Qui giacciono sotto telai metallici rotondi che ne limitano i movimenti per impedire che si girino a destra o a sinistra e schiaccino per sbaglio uno dei cuccioli. Il massimo del ritardo accettabile per una scrofa gravida è di 24 ore, scadute le quali il parto è indotto con la somministrazione di ormoni. Mentre l'inseminazione avviene sempre di martedì, i porcellini devono nascere sempre di giovedì. C'è poi la fase dell'ingrasso. In 4 mesi il peso di un maialino quadruplica, da 30 kg fino a 110 e anche 120. Uno degli argomenti su cui questo articolo si concentra è la questione degli antibiotici. Secondo le ultime stime dell'Ufficio federale per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare, i veterinari tedeschi somministrano agli animali, attraverso iniezioni o con il mangime, 1.734 tonnellate di antibiotici all'anno, più del doppio di quelli prescritti ai cittadini tedeschi. La filiera della produzione della carne di maiale è dunque un autentico orrore, ma forse il punto più scioccante si tocca quando è descritta la macellazione. E colpisce soprattutto se si pensa che questa inchiesta è stata scritta in lingua tedesca, riguarda la Germania, e riporta alla memoria un passato piuttosto recente di organizzata, cinica e sistematica distruzione della vita. Leggiamo questo passaggio. L'ultima cosa che i maiali da ingrasso vedono normalmente prima di morire è un corridoio grigio largo circa 2 metri e leggermente in salita. Dopo una o due svolte gli animali entrano a gruppi di 4 o 5 in una specie di montacarichi. Sono tranquilli, perfino curiosi. Vengono spinti da una grata automatica. Poi la porta si chiude. A quel punto arriva il gas. Nello stabilimento di macellazione suina di Clemens & Tönnies, il più grande d'Europa, questo posto è sorprendentemente silenzioso. Ogni giorno qui sono abbattuti circa 25.000 suini, 1.700 all'ora. Eppure, quasi non si sente un rumore. Niente squittii, niente mugolii, nessun lamento. Secondo Tönnies è perché le bestie si sentono bene fino all'ultimo istante. Diciamo pure che devono sentirsi bene, perché lo stress rovinerebbe la qualità della loro carne. Insomma, qui la felicità degli animali diventa letteralmente una questione finanziaria, una voce di bilancio. Quando i maiali arrivano, trovano qualcosa da bere e hanno 2 ore per riprendersi dall'agitazione del viaggio. Inoltre non sono soli, ma in gruppo, e il pavimento che calpestano è riscaldato. Credo che sia impossibile, leggendo questo passaggio, non pensare a Treblinka e ai campi di sterminio. Si parla poi degli operai impiegati in queste strutture, che sono quasi tutti stranieri. Oggi, secondo le stime, 7.000 fra romeni, polacchi e ungheresi sezionano maiali, disossano prosciutti e macinano carne negli stabilimenti industriali tedeschi. E un sindacalista dice: tutto il sistema si basa sul dumping dei salari. Va aggiunto che la particolare produttività di questa filiera industriale è favorita dagli stanziamenti statali. Si legge infatti che l'alta redditività della produzione di carne dipende anche da scelte politiche. Dal momento che la carne è considerata l'alimento di maggior pregio, da anni i politici ne sostengono la produzione con sussidi miliardari per la coltivazione del foraggio, per la costruzione di infrastrutture, per gli investimenti nelle stalle. E qui si capisce quindi quanto il sistema di sfruttamento, oppressione, distruzione degli animali sia un elemento fondante del moderno capitalismo e della moderna società dei consumi. Chiudiamo con qualche cifra proposta in un box che accompagna questo lungo articolo. Nel 2012 in Germania sono stati macellati 58,7 milioni di maiali. Durante la sua vita un tedesco mangia in media 46 maiali. Il 40% del raccolto mondiale di frumento, segale, avena e mais è usato per nutrire gli animali. In Germania la quota è del 50%. Negli allevamenti intensivi si somministra una quantità di antibiotici superiore di 40 volte a quella impiegata negli ospedali tedeschi. Abbiamo letto Il vero prezzo della carne, inchiesta di Der Spiegel, tradotta dal settimanale internazionale. Un articolo da conservare. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@conseradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.